9. Il racconto di Rosa Luxemburg. Penso che i capitalisti vogliano possedere la terra come i maschilisti la donna. La terra e la donna sono una e l'ossessione per la terra, sviluppata da coloro che hanno contaminato l'economia mondiale, rendendola una sterile e velenosa distorsione di tutto ciò che è umano e naturale, è alla base della millenaria azione magica per mantenere il dominio sulle femmine. Quando i guerrieri conquistavano una nuova terra, stupravano le donne per prenderne possesso della terra. Controllando la terra, il patriarcato controlla le donne e questo contribuisce ad alimentare il perverso sistema duale che spacca in due le forze del mondo e le mantiene in lotta tra loro. Ebbi un'indole spirituale e olistica. Avevo una forte connessione con la natura e sentivo amore e compassione per tutte le creature viventi, specialmente quelle maltrattate o sofferenti. Il povero bufalo, frustato a sangue davanti ai miei occhi per fargli trascinare un carico che andava oltre le sue capacità. Il calabrone semiassiderato che salvai portandolo nella mia cella su un pezzetto di stoffa. Le piantine, mie compagne di cella, verso le quali sentivo affinità e amore come fossimo una famiglia. Mi svegliavo al mattino presto e andavo alla finestra della cella. Di fronte alle sue sbarre ricordavo quando bambina nella casa dei miei genitori all'alba sgattaiolavo silenziosa nella camera da bagno e spalancavo la finestra, cosa proibitissima da mio padre. Respiravo a pieni polmoni l'aria frizzante del mattino che mi investiva come un'onda e mi rinvigoriva. Negli anni che trascorsi in carcere, coltivai nel cortile un minuscolo giardinetto dove passavo ogni giorno il prezioso tempo in cui potevo uscire all'aperto. La cella era disadorna, ma avevo quanto per me era essenziale: un tavolo e una sedia per scrivere i miei libri più cari, testi di zoologia, geologia, botanica, che mi permettevano di capire in che modo l'economia si incrociasse con tutte le forme di vita. Sì, era osservando la natura che comprendevo la vera economia e le sue leggi. La mia teoria, come la vostra, derivava dall'osservazione, sorelle Maria Montessori, Sabina Spierhein e Gabriela Mistral. Infatti, la denominai proprio economia naturale. Poi avevo le riviste di attualità che le mie sorelle socialiste, Clara Zetkin, Sonia Liebknecht e Louise Kautsky, mi facevano avere tramite la secondina, la quale me le consegnava dopo una generosa mancia. Grazie alle riviste rimanevo in contatto dalla mia cella col mondo esterno. Avevo anche un bricco per il caffè, un fornelletto a spirito e alcune brocche nelle quali avevo messo un po' di terra e avevo piantato qualche radice che timidamente fioriva e mi teneva compagnia in quella stanza buia e fredda. Vedevo la guardia fuori dalla mia cella che camminava avanti e indietro sotto la bufera di neve e stava peggio di me, stava lì a controllare che io non fuggissi dal carcere. Io che lo avrei invitato a entrare a scaldarsi con me, lasciando la porta della cella senza lucchetto. Ma io ragionavo da donna. Nella mia mente, guardiani e prigionieri non avevano senso di esistere. Erano un gioco inventato dal patriarcato per controllare e manipolare l'umanità. Quale ragionevolezza poteva mai esistere nell'avere un uomo che camminava sotto la neve davanti alla mia porta, avanti e indietro, per farmi la guardia? Inoltre, dal carcere potevo fare molto, potevo scrivere e come prigioniera politica screditavo l'immagine dei nemici del socialismo. Fui gioiosa e piena di voglia di vivere. Amavo l'umorismo e la bellezza e non disdegnavo la ricchezza, ma desideravo che tutta l'umanità fosse ricca, non solo pochi. Il pane e le rose per tutte e tutti, dicevo. Perché in un luogo di abbondanza come la Madre Terra, pronto a offrire alle sue creature quanto di meglio potesse esserci per loro, dovevano esistere milioni di miserabili e poche persone la cui ricchezza era tale da non poterla nemmeno misurare. Fin da ragazzina mi ero convinta che il problema non fosse la scarsità delle risorse, ma la loro pessima distribuzione, che avveniva non in base alle necessità della massa, ma in base alla rapacità di certuni. Come tutte voi, Alla maniera femminina, il mio pensiero spaziava da una disciplina all'altra. Le donne si muovono sempre in modo multidimensionale e trovano collegamenti per effetto di quello che la sorella Devana ha chiamato il fattore risonanza. Così io pure dalla politica passavo all'economia e dalla sociologia alla filosofia, alla pedagogia, riunendole in un unico sapere. Il carcere mi servì a imparare la pazienza e a smussare la mia impulsività. Cercai sempre di ragionare con chi avevo di fronte, anche se si trattava di un detrattore o del direttore del carcere. Smisi solo verso la fine della mia vita, quando mi resi conto che di fronte non avevo più degli esseri umani. Come ho detto, odiavo la guerra ed ero sicura che non fosse mai una soluzione. Lo aveva detto anche la sorella Maria Montessori che la pace dovrebbe essere garantita dall'equanime suddivisione dei beni e delle ricchezze. Lei pure fu scienziata, educatrice, attivista politica. Se l'essere umano fosse educato in modo sano, scriveva Maria, semplicemente non potrebbe fare la guerra. Eravamo perfettamente allineate. Al riguardo accusai il mio stesso partito, la mia posizione non violenta. Mi obbligava a oppormi non solo ai capitalisti occidentali, ma anche ai bolscevichi russi e al loro capo Lenin, che avevo accusato di aver trasformato un movimento spontaneo popolare in una dittatura dove ogni libertà era stata tolta in nome dell'uguaglianza. Mi chiamai fuori da ogni movimento ufficiale per camminare da sola la mia strada di verità. Come la sorella Ipazia, anche io sono stata rimossa dagli archivi storici del patriarcato e si continua per lo più a ignorare le mie teorie economiche. Nacqui in quella travagliata Polonia che continuamente cambiava padrone sulla scacchiera europea. Fin da studentessa partecipai ad attività rivoluzionarie. A 18 anni, nascosta in un carro di fieno, scappai in Svizzera. La polizia polacca mi cercava per arrestarmi. Dalla Svizzera salii in Germania, dove partecipai alla fondazione del Partito Socialdemocratico Tedesco. Alla scuola del partito insegnavo economia politica. A Berlino entrai in contatto con l'Internazionale Socialista, ma fin da subito ebbi una visione molto più ampia e completa di quella dei miei compagni. La mia visione e azione erano, se dobbiamo incasellarle in un linguaggio politico riduttivo, di matrice socialdemocratica. Ma il mio comunismo rispecchiava in realtà l'idea archetipica di comunità, quelle comunità contadine autosufficienti e pacifiche del passato. Non ero certo in risonanza con lo scempio patriarcale operato dalle rivoluzioni armate in Russia e Cina. Nel mio libro L'accumulazione del capitale spiegai chi sta realmente dietro a queste rivoluzioni, chi le finanzia. Non presi mai posizione ufficiale riguardo al voto delle donne né a nessuna delle loro istanze, ma con la mia stessa vita, come voi, sorelle Gertrude e Karen, tracciai un cammino concreto da cui potessero prendere ispirazione coloro che desideravano emanciparsi dal colonialismo patriarcale. Io desideravo la libertà per tutte le creature, fossero donne, uomini, animali o vegetali. Tuttavia, fui solidale con le donne. Quando seppi che il mio compagno aveva sfogato le sue esigenze sessuali con un'altra donna, io lo lasciai, ma non per gelosia. La mia lealtà andò a colei che per il mondo doveva essere la mia rivale. Ero indignata che colui che amavo e che pretendeva di starmi accanto potesse usare il corpo di una donna per il suo comodo. Del resto, Clara Zetkin, indomita attivista per i diritti femminili, era una delle mie più care amiche. Con lei organizzammo scioperi e gruppi internazionali di donne socialiste contro la guerra. Con lei condivisi la cameretta a Parigi quando entrambe in fuga da Bismarck chiedemmo ospitalità all'Internazionale Socialista Francese. La storia patriarcale mi ha archiviata soprattutto come rivoluzionaria o tutt'al più filosofa, ma è all'economia che io sentivo come energia che muove il mondo e che dunque cercavo di comprendere e trasmettere. Nell'ultimo libro che scrissi, prima di essere assassinata, l'accumulazione del capitale, analizzai con la lucidità di cui la madre mi aveva dotata la situazione economica mondiale. Agli studenti universitari del tempo terrestre attuale non viene presentato il mio testo di economia politica, il quale contiene un'accurata disamina del capitalismo come forma economica pervertita e distruttrice di tutto ciò che è naturale, poiché è basato sullo sfruttamento senza rinnovo di ogni risorsa per nessun altro scopo che alimentare se stesso, trasformando il mondo intero in un unico grande mercato del consumo. Presagii i danni del consumismo molto prima che fosse persino coniato il termine. Per me era chiaro che il sistema sarebbe collassato per la troppa produzione di prodotti e di beni. Dal tavolino della mia cella scrivevo, ricordo come fosse ora: l'altro aspetto dell'accumulazione del capitale è la politica coloniale, con il sistema dei prestiti internazionali. Appaiono apertamente e senza veli la violenza, la frode, l'oppressione, la rapina, la guerra, tanto che costa fatica identificare sotto questo groviglio di atti politici, di forze e di violenza, le leggi ferree del processo economico. Dimostravo, senza ombra di dubbio, che le comunità tribali, con la loro equa suddivisione di lavoro e produzione, garantiscono il benessere di ogni membro, mentre l'economia capitalistica mira all'acquisizione con la violenza dei beni per se stessa e all'impoverimento della collettività. E questo è esattamente ciò che le facoltà universitarie di economia di oggi vogliono celare agli studenti, i quali, al contrario, devono essere addestrati a credere che il sistema economico liberista capitalista sia l'unico possibile. Se si convincessero di quanto io scrivevo, gli studenti, il sistema economico e finanziario dell'elite dominante non avrebbe più sostenitori e si sgretolerebbe. Fui arrestata diverse volte, ma non mi fermai. Continuai a scrivere anche dal carcere, dove produssi, beh sì, le mie pagine migliori. Il mio ultimo arresto durò 3 anni, quasi tutta la Prima Guerra Mondiale. Io ero antimilitarista e lo dichiaravo apertamente nei comizi. Alla fine della guerra, quando fui rilasciata, presi le distanze da qualunque partito di sinistra, uomini codardi e senza sangue che continuavano a rimandare l'azione per paura di perdere i voti e il potere che stavano accumulando. Con i pochi compagni rimasti fedeli all'azione, fondai la Lega Spartachista, dal nome del gladiatore romano ribelle Spartaco, che si mise a capo della più importante rivolta di schiavi della storia di Roma. Ma pochi mesi dopo fui assassinata a sangue freddo. Secondo la versione ufficiale dalla polizia tedesca a Berlino, in realtà io so da chi: da sicari al soldo dei capitalisti. Poiché avevo compreso che anche il comunismo sarebbe stato manipolato dal capitalismo per il suo scopo ultimo, per l'appunto l'accumulazione del capitale. Il mio corpo fu ritrovato in un canale. Avevo 48 anni terreni e, come la sorella Sabina Spielrein, ebbi vita troppo corta per arrivare a sviluppare tutte le mie intuizioni. Mi sarebbero bastati altri 10 anni per creare un modello economico completo e ineccepibile. Clara Zetkin, che aveva fondato la Lega Spartachista con me, dopo la mia scomparsa, raccolse i miei scritti e divenne la mia editrice. Pensavo che senza bisogno di rivoluzione il socialismo sarebbe stato la naturale conseguenza della saturazione dei mercati causata dal consumismo. Naturalmente un socialismo fatto di popoli con coscienza di classe significava avere consapevolezza della propria importanza all'interno dell'economia naturale. Senza chi lavori il mondo si fermerebbe. Come per la coscienza femminina, anche quella di classe doveva scaturire da un risveglio della propria autostima. Tuttavia non potevo immaginare che il capitale avrebbe provocato una modificazione del pensiero umano tale da operare, dopo la conquista dei mercati fisici da parte del colonialismo, la conquista delle coscienze da parte del web. Nel tempo terrestre attuale, il connubio tra web e marketing ha prodotto la colonizzazione delle menti. Le persone comprano beni inutili solo per sentirsi accettate tra i cosiddetti followers dell'influencer, come si dice nel loro linguaggio robotizzato. Il consumismo si è trasformato in malattia degenerativa. La mia visione era già anticipatrice di quella di nostra sorella Maria Gimbutas riguardo le comunità matrifocali neolitiche. Intendevo l'economia in senso spirituale, non bancario o finanziario, come dà ad intendere la forma corrotta nel tempo attuale. La parola economia, spiega bene la sorella Devana, economia, viene dall'antico greco oikos, nomos, che significa regolamentazione della comunità. Con la parola economia si intendeva l'ottimizzazione delle risorse della comunità. È proprio l'economia matrifocale, matriarcale, quella che io chiamavo economia naturale. Ed è quella nella quale tutte le persone stanno bene secondo le loro necessità. Le comunità tribali autonome di cui avevo parlato nel mio trattato, che condividono liberamente i propri beni, che producono da sé tutto ciò che serve loro, unendo agricoltura e artigianato, e che scambiano con altre comunità solo i prodotti in eccesso. Non c'è inquinamento, né accumulazione, né necessità di denaro e, più importante, non esiste debito. Questa è nient'altro che l'economia femminina delle madri dei clan che tu hai riscoperto e comprovato con le tue ricerche archeologiche e la comparazione degli antichi manufatti, sorella Maria. Questa è stata la prima e l'unica vera forma di economia in tutta la terra. C'era tutto ciò che serviva. Le donne tessevano e producevano ceramica, gli uomini producevano utensili e insieme alle donne lavoravano la terra e allevavano animali. Erano comunità ricche e sazie finché la terra non è stata considerata un bene da conquistare con la violenza, possedere e capitalizzare. A quel punto ha iniziato a essere sfruttata in maniera intensiva come le donne per far figli. Il possesso della terra è l'unica cosa che ha sempre messo d'accordo capitalismo e comunismo, nazioni e partiti di destra e di sinistra, rivoluzioni opposte apparentemente l'una all'altra. Il possesso della terra è l'unica cosa che non si discute e non si tocca, nemmeno nelle rivoluzioni comuniste come la russa, la cinese e la turca, è la base del patriarcato, che poi è la forma pensiero alla base del capitalismo. Il capitale è un'entità non umana, autonoma e a sé stante. Lo ha scritto anche la sorella Devana, è un'energia uscita dal controllo del pensiero umano, è un mostro, senza cuore, con un enorme ventre e una fame divorante, la fame di accumulazione. Sorella Amandine, Rosa allungò un braccio a convocare accanto a sé colei che fu conosciuta dal mondo come George Sand. Hai scritto e parlato tanto di politica. Tu, donna molto impegnata su tutti i fronti, anche tu ti chiamasti fuori da ogni schieramento. Una donna dal corpo pesante e dallo sguardo vivo si alzò dal ceppo di legno su cui era seduta. Il suo caftano era color prugna matura, i suoi capelli erano nerissimi e crespi, il sorriso audace, gli occhi scuri, vivi e profondi. Si avvicinò a Rosa, la quale si alzò, e le due donne si abbracciarono a lungo. Rimasero immobili nell'abbraccio, in silenzio, come due anime che si ritrovavano dopo tanto tempo. Poi Amandine aiutò Rosa a tornare seduta e anche a lei fu offerto un seggiolino da campo dove la pesantezza del suo corpo potesse trovare sollievo. Rosa riprese a parlare, tenendo stretta la mano di Amandine tra le sue. Dopo la separazione da tuo marito, Amandine, cominciasti a frequentare i socialisti intellettuali, a ospitarli nella tua casa e spesso a nutrirli col ricavato dei romanzi che sfornavi, uno dopo l'altro, nelle notti insonni in cui il tuo pennino, intinto nell'inchiostro alla luce del lume a petrolio, grattava instancabilmente la pagina come una ninna nanna per i tuoi ospiti. I tuoi detrattori non hanno mai tenuto in conto della numerosa famiglia di figlie e figli adottivi che ha mantenuto il tuo generoso mestiere di scrittrice con il quale sfinisti il tuo corpo. Ecco perché sostengo che il tuo socialismo era spirituale come il mio. Tu praticasti realmente la vita in comunità, dove si mangia, si dorme, si pensa e si crea insieme, condividendo i propri talenti. E la tua casa di Noa, Quando riusciste a tornarne in possesso, diventò proprio una comunità spirituale come quelle che fondarono Amos Alcott, il padre della nostra sorella Luisa, il tuo amico utopista Fourier e il suo omologo inglese Owen. Nella grande cucina di Noin preparavi deliziose zuppe per tutta la tua comunità di artisti e ideologi spiantati, con le erbe selvatiche che conoscevi e coglievi sulla riva dell'Indre, nelle terre che tua nonna ti aveva lasciato. Abbandonasti il corpo quando io avevo 5 anni. Era il 1876. Ma se anche ero bambina, io ti vedevo in sogno e avrei voluto stare con te, con tutte voi, nella tua casa di campagna nel Berry. Eri antimilitarista come me. Quando ti invitarono a partecipare alle barricate, rispondesti: non ci sto. Il socialismo che arriva a cavallo della dittatura si trasforma in un affare di partito. Abbasso il partito e viva sempre il popolo. Ne ho abbastanza di dittatura. Non ce n'è una buona e una cattiva. La violenza genera sempre il male, non la coscienza del diritto. E te ne tornasti a Noa, nella tua grande casa collettiva. Gli uomini si sentirono da te traditi, sia Napoleone III che ti teneva in gran conto, sia i socialisti che ti consideravano compagna e ti accusarono di mancare all'impegno con la causa. Ma noi, tu, io, Maria Montessori, Virginia Woolf e le altre, sapevamo e scrivevamo che la violenza non è la risposta e che tutto ciò che nasce sotto la bandiera della violenza prima o dopo si trasforma esattamente in ciò che aveva combattuto. Sapevamo che tutte le dittature nascono da una rivoluzione apparentemente giusta che viene poi cavalcata e sfruttata dal patriarcato capitalista. Ecco, la dittatura rivoluzionaria è una tua espressione che io stessa adottai. Mi ispirai alla tua non azione quando mi chiamai fuori dal socialismo, perché mi resi conto che i cosiddetti partiti non sono mai col popolo, ma sono sempre con gli oligarchi. Rosa tacque. Si soffiò rumorosamente il naso e chiese un'altra tazza di caffè. Ne era ghiotta. Noi tutte eravamo scosse nel profondo dal suo racconto che aveva toccato in noi corde inesplorate, nonostante la consapevolezza e l'altezza di pensiero in cui ci muovevamo. Sentimmo la necessità di offrire qualcosa di noi al suo coraggio e al grande insegnamento di colei che fu ribattezzata di Rote Rosa, la Rosa Rossa. Ci mettemmo in coda e ciascuna di noi a suo turno le depose un bacio sulla fronte. Lei non si alzò, ricevette i nostri baci con gli occhi chiusi, il viso sollevato e un leggero sorriso, come se stesse ascoltando ancora una volta il canto delle sue amate cince allegre trasportato dal vento del deserto. Quando terminò l'omaggio, Amandine, che era ancora seduta accanto a Rosa, si schiarì la voce. E restando anche la seduta, disse con la sua voce un po' aspra dall'accento ironico: «Bene, credo sia venuto il mio turno». E iniziò il suo racconto.